Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, e andiamo subito a vedere come vanno le borse. In realtà Milano è chiusa e sarà chiusa anche lunedì, e quindi oggi poche indicazioni arrivano dal mercato e non vi sarà nemmeno l'approfondimento ovviamente di borsa con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, dicevo, i temi di questa giornata economico-finanziaria, tiene banco la politica, in attesa di sapere se stasera o domani arriveranno indicazioni dal Presidente della Repubblica. Per quello che riguarda, volete sapere quali borse sono aperte? Sostanzialmente in questo momento il Radio Core è chiusa, non abbiamo indicazione dei mercati, ve le daremo comunque alcuni aggiornamenti alle 17.35, ma per quello che riguarda la giornata politica, in attesa di sapere se questa sera ci sarà un'indicazione o domani potrebbe arrivare un'indicazione dal Presidente della Repubblica, faccio notare che sono usciti invece dei dati su Pasqua, sia dalla Coldiretti che dalla Confesercenti. Ovviamente una colomba triste, o una colomba magra, quella che si alzerà in volo per Pasqua, e non poteva essere altrimenti. Proprio ieri abbiamo fatto una puntata dedicata alle tre streghe fiscali a giugno: Tares, IMU e IVA. In più rallegreranno le vacanze degli italiani. Ma oltre a questo, segnalo una dichiarazione che poi ascolteremo in maniera integrale, e cioè il presidente di Goldman Sachs Asset Management, e mi riferisco a Jim O'Neill, importantissimo, molto noto banchiere d'affari a livello mondiale, dice oggi: il vero problema dell'Unione Europea non è Cipro, ma è l'Italia con il fattore Grillo. Ma non lo dice in maniera, diciamo, critica con l'Italia e basta, perché dice: è questo di cui dovrebbero preoccuparsi i paesi del Nord Europa, il blocco dei paesi del Nord Europa. La storia più interessante, continua Neil, è il fattore Grillo in Italia. Non capisco come i tipi duri del Nord, lo dice chi gestisce tutti i fondi di Goldman Sachs, non uno del Movimento 5 Stelle o il sottoscritto. La storia più interessante è il fattore Grillo. L'Italia è la terza economia dell'area euro. Non capisco come i tipi più duri del Nord non stiano pensando a questo problema. Se l'Italia non comincia ad avere un po' di crescita presto, gli italiani cominceranno a chiedersi quali siano i benefici di questa permanenza nell'euro. Cosa sta facendo l'Unione Europea per affrontare questo problema? Sembra che le sue decisioni vengano prese solo da chi ha voce grossa, e specie in Germania. Allora, voi sapete che questo programma non è tenero con i banchieri d'affari, li stiamo bastonando da quando è scoppiata la crisi. Però se uno dice una cosa che condividiamo, perché no? Ed è interessante che lo dice chi gestisce centinaia di milioni di flussi di capitali e di investimenti, visto che Goldman Sachs non è esattamente l'ultima banca del pianeta. Ripeto, cosa sta facendo l'Unione Europea per affrontare questo problema? Sembra che le sue decisioni vengano prese da chi ha la voce grossa, specie in Germania, e non capisco come i tipi duri del Nord Europa non stiano pensando al fattore Italia, che è la terza economia dell'area euro, e se non comincia a avere qualche beneficio della sua permanenza in Europa, gli italiani potrebbero iniziare a chiedersi quali siano i motivi per cui restare nell'euro. O'Neill, più chiaro di così, se muore, un applauso. Comunque parleremo di cosa sta facendo l'Europa, del mercato che ha sempre ragione, che è il titolo di un libro del direttore dell'Istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi, che dovrebbe essere nostro ospite assieme al mitico Giulio Sapelli. Non potevano non invitare l'uccellaccio il venerdì di Pasqua prima di salutarci per il ponte pasquale. Lunedì comunque Focus Economia sarà in diretta in versione speciale di un'ora, dalle 17 alle 18, però di cui ne parleremo, perché è vero che i mercati, spesso definiti razionali, più che altro speculativi, Però già tempo fa con Luigi Zingales diceva: attenzione, gli speculatori sono avvoltoi, ma gli avvoltoi si muovono laddove c'è una carcassa, non dove c'è un corpo vivo. Non è che l'avvoltoio è stupido, no, l'avvoltoio è avvoltoio ma non è stupido, e va là dove sente odore di cadavere o dove c'è già un cadavere. Per cui attenzione a dire avvoltoi come se fossero dei biechi ignoranti. E devo dire che in queste settimane abbiamo assistito, tra virgolette, a una certa intelligenza dei mercati del denaro, nel senso che non c'è stato un attacco speculativo, se per speculativo intendiamo irrazionale, all'Italia dopo il voto. Sono tutti rimasti alla finestra. Lo spread ha avuto un po' di tensione nelle ultime giornate ed è arrivato a 350, ma ripeto, lo abbiamo visto a 400, a 450, a 540, quindi c'è stata, a mio avviso, un certo grado di razionalità, di attesa, non certo di irrazionalità e speculazione così di pancia. Bisognerà capire quanto durerà questo atteggiamento molto prudente prima di iniziare ad attaccare l'Italia. Devo dire che però una volta tanto i mercati hanno dimostrato che non vengono mossi solo da giudizi così, solo emotivi o di brevissimo respiro. L'oro comunque oggi è stabile sui mercati asiatici a 1596 dollari l'oncia, il petrolio a 97 dollari al barile. Ieri, ve l'hanno raccontato anche i nostri GR questa mattina, come già era avvenuto durante la seduta, comunque la borsa americana ha chiuso sui massimi, nel senso che ormai ha recuperato Wall Street sia le perdite sia sul Dow Jones che sullo Standard & Poor's, tutte le perdite da quando è iniziata la crisi, dal 2008. E infatti ieri il Dow Jones ha chiuso la seduta salendo a 14.578 punti, il livello più alto dal 2008, appunto, e in generale il livello più alto di sempre. E Standard & Poor's 500 ha messo a segno un progresso a 1.569 punti, anche questo è la chiusura più alta della storia. La chiusura più alta di questa fu il 9 ottobre del 2007. Per questo, per far capire che il problema in questo momento, mi dispiace dirlo, ce l'ha soprattutto l'area euro. L'America ha un deficit altissimo, dovrà rientrare sulla spesa pubblica, ma ha una borsa che è a record storico. Abbiamo visto utili anche interessanti in America. I paesi in via di sviluppo, come ben sviluppati alcuni, mi riferisco a India, Cina, Indonesia, Sudafrica, Sud America come Brasile soprattutto, e anche in parte il Cile, non hanno problemi di sorta. I paesi del petrolio non hanno problemi di sorta, OPEC e quant'altro. E se leviamo tutti questi, resta col cerino in mano l'area euro, mi spiace dirlo. Arriverò anche a chi dice: ma come, se queste cose le dice Grillo sono cavolate, se le dice O'Neill hanno il suono di una tromba. No, guardi, è chiaro, cioè, però parliamoci chiaro, se le dico io sono cavolate, se le dice il numero uno della Goldman Sachs, che gestisce tutti gli asset di investimento di Goldman Sachs, è chiaro che è un peso diverso, no? E se per di più di formazione anglosassone americana, no? Banca d'affari per definizione, Goldman Sachs, se loro sono preoccupati dal fatto che l'Italia non stia ottenendo alcun vantaggio da essere in Europa, dal rigore dei paesi del nord Europa, dal fatto che fanno i duri e non capiscono il rischio sottostante, che pesa più il fattore Grillo del fattore Cipro, mi sembra più interessante citare O'Neill in questo caso che Grillo o il sottoscritto. Tutto qua. No, sorrido perché c'è un altro ascoltatore che dice: Barigioni, basta dire cavolate. Non dice proprio così. Adesso ci tento, mi dia un po' di fiducia. Andiamo avanti. A proposito di fiducia, la fiducia dei consumatori americani a marzo sale a 78 punti ed è in rialzo negli Stati Uniti non solo la borsa ai massimi storici, come dicevamo, ma anche la spesa personale, un altro pianeta rispetto a qua, la spesa di ogni singolo americano è cresciuta ai massimi da 5 mesi a questa parte. un rialzo dello 0,7%. I redditi sono cresciuti dell'1,1%. E sì che l'America sta seguendo una ricetta che è odiata dalla Germania, dalla Bundesbank, eh? Stampare denaro, magari creando un po' di inflazione, ma permettendo alla gente di arrivare a fine mese. Questa è la ricetta keynesiana e molto italiana, svalutazione del dollaro, no? Che sta applicando l'America. Però poi vedremo gli effetti, vediamo come è messa l'Europa dopo 4 anni di ricetta tedesca e vediamo come è messa l'America dopo 4 anni di ricetta all'italiana, o alla Keynes, per meglio dire. E infatti in Francia, non in Italia, in Francia c'è un crollo dei consumi a febbraio. Immaginiamo perché? Scrivono le agenzie. Crollano a febbraio i consumi in Francia per appesare soprattutto l'alto tasso di disoccupazione, con un numero di disoccupati di oltre 3 milioni. Eh sì, perché è un po' strano, ma i disoccupati hanno questa caratteristica che quando perdono un lavoro o non lo trovano, spendono meno. Lo so, è una cosa pazzesca, però tendono a spendere meno. E se spendono meno i consumi calano, e se i consumi calano le imprese vendono meno e licenziano, e aumentano i disoccupati e aumentano i consumi in calo, e si chiama spirale negativa. In Gran Bretagna, che è messa meglio dell'area euro per alcuni versi, però non meno di 4.000 persone si sono messe in fila fin dal mattino presto per candidarsi ad uno dei posti da commesso pubblicizzati in un nuovo centro commerciale a Whiteley, nel sud dell'Inghilterra. Lo ha riferito la stampa britannica. I colloqui iniziavano alle 10 di mattina. Già alle 8 di mattina c'erano centinaia di candidati e c'erano in ballo un centinaio di posti da commesso. 4.000 persone in fila fino alla mattina. Piove sul bagnato, ma è interessante, poi ne parleremo, capire cosa sta succedendo a Cipro, perché mentre i ciprioti, i correntisti ciprioti hanno capito che sono russi, ma hanno avuto un bel salasso, c'è una lista contenente i nomi di società e parlamentari ciprioti a cui le 3 principali banche di Cipro avrebbero condonato prestiti per milioni di euro. Questa lista è stata trasmessa alla Commissione Etica del Parlamento dopo essere stata pubblicata dal quotidiano greco Ethnos. Praticamente la Bank of Cyprus, la Laiki Bank, quella che è fallita, e la Hellenic Bank negli ultimi 5 anni avrebbero cancellato milioni di euro dovuti in prestiti da compagnie, deputati e amministratori locali come sindaci di grandi città. Comparirebbero nella lista nomi di politici di tutti i partiti ciprioti, ad eccezione dell'EDEC, che è socialista, e del Movimento Ecologico Ambientalista. Stando alle rivelazioni di Ethnos, la Bank of Cyprus avrebbe cancellato, pensate, un prestito da 2,8 milioni di euro ad un grande albergo collegato al Partito Comunista Akel dell'ex presidente Dimitris Christofias, e ha condonato grosse fette di molti altri prestiti. Gauche caviar, mi sembra, no? Sinistra caviar, il Partito Comunista Akel, che si vede cancellato un prestito da 3 milioni di euro, vabbè. E una compagnia di cui non è precisato il nome si è vista condonare 110.000 euro da un prestito di 1.830.000, mentre un noto parlamentare del Partito dell'Unione Democratica di centrodestra, a lui sono stati cancellati 100.000 euro da un prestito di 168.000 euro. La lista è molto lunga, è una tecnica che in Italia forse non abbiamo ancora visto, spero che non adotteremo il metodo Cipro anche su questo. Abbiamo visto case comprate a insaputa, ma non conti, debiti azzerati ancora a insaputa. E allora passiamo subito, mentre il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha invitato le varie sedi regionali a muoversi sui rimborsi IVA alle imprese. Dovrebbe erogare nel 2013 11 miliardi complessivamente di rimborsi IVA alle imprese, e ha invitato Befera e i direttori regionali a dedicare ogni risorsa utile alla liquidazione dei rimborsi nei prossimi 4 mesi. Noi torniamo con la nostra rubrica. È Pasqua, lo so, è quasi Pasqua, però ci sono le ceneri, e allora con le ceneri torniamo a parlare delle ceneri che alcuni amministratori hanno fatto pubblici delle nostre finanze, dei soldi tutti noi. rosso e bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, è innegabile, lo dico senza nessun commento politico, che da quando è montato il Movimento 5 Stelle, ieri abbiamo avuto in esclusiva, lo raccontavamo, i tagli che il PD ha deciso di fare alla sua struttura organizzativa, al suo budget. Però è innegabile che è vero che c'è stato il libro sulla casta di Stelle e Rizzo, però poi tutto era passato in cavalleria. Insomma, la paura fa 90, dai, mettiamola così. E quindi adesso è una raffica di provvedimenti che noi accogliamo tutti con favore, ci mancherebbe, meglio tardi che mai. Per esempio, in Regione Lombardia, la nuova gestione di Roberto Maroni, dalla prossima seduta i consiglieri regionali lombardi dovranno pagare il prezzo pieno per il caffè e le bevande al bar della Buvette, devolvendo la differenza di costo a un fondo di solidarietà. Bravo Maroni. Non so quanti caffè bevano in Regione Lombardia, ma insomma mi piace l'iniziativa, perché la differenza di costo va a un fondo di solidarietà. I dipendenti invece potranno continuare a bere caffè a prezzo calmierato, mi sembra giusto, come prevede la convenzione tra il Consiglio regionale e la società che gestisce il servizio. Oltre al taglio degli sconti al bar, sono state varate nuove regole per cui non potranno essere impiegati coniugi e parenti entro il secondo grado di consiglieri, assessori e sottosegretari. E anche questo mi sembra un atto di trasparenza, oltre che di civiltà, in qualche modo. Allora, adesso io voglio capire una cosa. Al Fate Bene Fratelli lo hanno definito il concorso della vergogna. Hanno vinto 7 dipendenti con in tasca solo la terza media, un concorso dove c'era l'obbligo di avere una laurea o in assenza il diploma delle scuole superiori, abbinato a 5 anni di esperienza professionale. Addirittura è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri e praticamente vincitori del bando 7 dipendenti, con conseguente aumento di stipendio che arriva a essere superiore a 5.000 euro l'anno l'aumento, I requisiti previsti per legge sono stati modificati nel bando, equiparando la laurea richiesta a 10 anni di anzianità. E addirittura la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollecitato spiegazioni, anche se il concorso risale a ormai 4 anni fa. L'Italia è lunga, ma è molto corta, è molto unita, è molto vicina. Da Aosta a Trapani, quando si tratta di utilizzare i soldi della pubblica amministrazione. Sapete perché? Perché a Bologna è dovuto intervenire il PD locale a chiedere chiarimenti all'amministrazione di Gaggio Montano, che ha bandito un concorso per un posto da istruttore amministrativo contabile per il settore sociale. Vabbè, non era part-time a tempo indeterminato, 17.000 euro lordi l'anno. Vabbè. Però la cosa strana è che tutto il paese già sapeva chi l'avrebbe vinto. Una ragazza che fino a pochi anni fa e per 2 anni ha ricoperto in comune un ruolo analogo. Le voci hanno scoraggiato già gli altri 131 candidati. È arrivata anche una lettera anonima in cui sarebbe già stato passato la candidata ed era già tutto deciso. A giocarsi il posto saranno in 27 e tra queste anche la ragazza che tutti sanno averlo già vinto. Ecco perché io dico, se bisogna fare i concorsi finti, facciamo le chiamate dirette. Almeno l'amministrazione comunale, l'ASL, l'ente, si assume la responsabilità di chi ha assunto, perché sennò in questo modo i concorsi sono pilotati dentro l'università, nelle strutture ospedaliere, nelle amministrazioni pubbliche, però la colpa è di nessuno perché il concorso l'hai fatto. No. Il direttore della ASL, il sindaco, si assume la responsabilità di prendere quella ragazza che magari è bravissima, se va male la colpa è sua, trasparenza, responsabilizzazione. Devo dire che questo, visto che mi chiedete spesso di Oscar Giannino, era uno dei cardini del movimento Fare per fermare il declino, per cui ci sono temi che possono andare bene, come l'eliminazione della laurea, del valore legale della laurea, così chi si è laureato in una facoltà facilissima non viene equiparato nei concorsi a chi si è laureato facendo 3 volte, 4 volte la fatica. Eliminiamo sto valore legale della laurea che mette assieme l'università di Camerino, con massimo rispetto, con università magari un po' più difficili, no? E anche poi per i concorsi di avvocato e magistrato. Dicevo, l'Italia è corta, è vicina, perché a Bologna capita questo, ma a Palermo il bagnino è in vacanza e la piscina comunale risulta inutilizzabile. È rimasta chiusa una piscina comunale di Viale del Fante perché un bagnino era in malattia, l'altro in ferie, e se qualcuno si ammala dobbiamo chiudere. Praticamente da quando il GESIP, Gestione dei Servizi e Impianti Pubblici di Palermo, ha interrotto le attività, il personale comunale si è messo sulle barricate rifiutando di accettare incarichi diversi da quelli svolti fino a quel momento, alla faccia della mobilità dei dipendenti comunali. A fronte delle richieste di trasferimento sono arrivati 200 certificati medici, a cominciare dai dipendenti che dovevano prestare servizio in piscina. È vero. Aspetta un attimo, qui devo respirare perché... Allora, è vero, io posso capire che ci possa essere anche un dimensionamento, ma ci sono stati 10 dipendenti dirottati per fare le pulizie, in 5 non si sono mai presentati, a un altro manca un braccio, un altro è zoppo e altri 2 si sono messi in malattia già dal secondo giorno. Lo stesso è accaduto al cimitero, si sono presentati solo 8 dei 17 trasferiti, e al canile, dove in molti hanno attestato di essere allergici ai peli di cane e di gatto. Non ce la posso fare, mandami il metto che poi riprendo con fondiere, sai, perché voglio dire, cioè, ma come si fa a dirottare un dipendente a cui manca un braccio? Io lo dico con massimo rispetto, un altro che zoppa a fare le pulizie, e poi voglio dire, al cimitero non ci vuole andare nessuno, io posso capire, e al canile dove tutti sono allergici ai peli di cane e di gatto è dura, no? minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, molti scrivono al 349-238-6666 e anche sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Beh, anche i medici che firmano quei certificati di allergia, mi riferisco al tentativo al Comune di Palermo di trasferire alcuni dipendenti al canile, tutti allergici al pelo di cane e di gatto, non sono male. Avete ragione, c'è anche una cattiva abitudine in alcuni medici italiani dare il certificato. Comunque cerchiamo di essere seri sempre. Poi c'è qualcuno che si è arrabbiato perché ho detto l'università di Camerino, ma no, voglio dire, è una bellissima università quella di Camerino, una bellissima posizione. Ho solo detto che continuare a mantenere il valore legale del titolo di laurea in Italia significa equiparare nei concorsi chi ha fatto università o facoltà particolarmente difficili, e lo sappiamo tutti che ci sono facoltà e facoltà in questo paese, inutile nasconderci dietro l'ipocrisia, con chi? Leviamolo, e poi uno vincerà in base a come supera i test, o anche ci potrà essere la possibilità di chiamare solo i laureati in quella facoltà di quell'università perché la si ritiene migliore. Cioè, negli altri paesi non sono tutte uguali le lauree, dipende dove ti lauri, che fatica fai, quanto dura è, c'è un punteggio, c'è una classifica, così mettiamo in concorrenza anche ste cavolo di università e sti professori universitari, e quelli più duri e bravi e più meritocratici avranno un punteggio più alto nella classifica, funziona così nel resto d'Europa, su. Andiamo avanti con, prima di arrivare alla Pasqua amara, cioccolato amaro per gli italiani, alla vicenda fondiera SAI, che voi sapete che mi sta particolarmente a cuore, perché il modo in cui la famiglia Ligresti e l'amministratore delegato Marchionni hanno distrutto valore, c'è un'inchiesta della procura in corso, è incredibile, e anche il fatto che però avessero ottenuto prestiti per oltre 1 miliardo da Mediobanca a me lascia sempre sospetto, perché poi quando il piccolo imprenditore va in banca gli ipotecano anche la moglie, se magari alcuni sono contenti, però insomma questo è l'atteggiamento. E invece Ligresti è riuscito a ottenere 1 miliardo di prestiti per distruggere un gruppo da Mediobanca. Comunque Fondiera SAI ha speso più di 15 milioni di euro per pagare stipendi, buonuscite e consulenze ai suoi consiglieri. C'è un gruppo che chiude con 1,4 miliardi di perdita, distribuisce 15 milioni di euro a consiglieri, sindaci e manager. In realtà quella volta il buco fu di 800 milioni di euro, ma ci fu una ricapitalizzazione di 1,1 miliardi. Svetta nella classifica dei compensi, lo dico senza nessun polemica, per Giorgio Peluso, che è figlio del ministro all'interno Anna Maria Cancellieri e neo direttore generale di Telecom. A settembre è uscito con 3.830.000 euro, tutti legali, ci mancherebbe, comprensivi di una buona uscita da 3.600.000. Peluso è riuscito a guadagnare più dei tre fratelli Ligresti messi assieme. I due fratelli Ligresti rimasti nel CDA, Paolo e Ionella, presidente fino ad aprile e poi vicepresidente, sono stati ricompensati con 1.100.000 e quasi 1 milione di euro, non considerando anche le responsabilità che potevano aver avuto nella precedente gestione. Non so, chiedo. Giulia Ligresti, presidente di Premfin, ha ricevuto per l'incarico 1.100.000 euro e anche la famiglia La Russa ha incassato il tradizionale gettone dei Ligresti. Vincenzo La Russa ha percepito 532.000 euro e poi, battuto dal nipote Geronimo La Russa, figlio dell'ex ministro Ignazio, consigliere di Premafin, a cui la holding ha riconosciuto 560.000 euro, di cui 550.000 euro per le prestazioni dello studio La Russa. Ancora, io ricordo che secondo il rapporto del commissario Matteo Caratozzolo, la gestione dei Ligresti ha causato alla società gravissimi danni. Ecco perché va bene i costi della politica, gli sprechi, però anche qui, ragazzi, cioè, lo dice Caratozzolo, le operazioni immobiliari sono state la principale fonte di perdita, cioè sostanzialmente l'accusa è che Ligresti abbia fatto comprare, quando era presidente di Fondiaria SAI, alla Fondiaria SAI, immobili suoi del gruppo Ligresti, il caso tipico è ATA Hotels, acquistato da Fondiaria SAI al prezzo incongruo di 25 milioni di euro, ha generato 80 milioni di perdite. Scrive il commissario, non io. L'opera di spoglio di Fondiaria SAI si è realizzata anche attraverso il pagamento di corrispettivi ingenti e ingiustificati a Salvatore Ligresti sotto forma di consulenze per far acquistare a Fondiaria SAI gli immobili che hanno poi causato ingentissime perdite. In 8 anni l'ex presidente onorario di Fondiaria SAI, Salvatore Ligresti, ha incassato come consulenze, era già presidente ma si faceva pagare pure le consulenze, 42,2 milioni di euro. Tra il 2008 e il 2011 Ionella Ligresti ha ricevuto da Fondiaria SAI quasi 10 milioni di euro, 9 milioni e 500 mila come compenso per la carica di presidente. Scrive il commissario, emolumenti abnormi secondo una prassi di cui hanno beneficiato anche gli altri esponenti della famiglia Ligresti e del consiglio di amministrazione di Fondiaria SAI, anche perché le deleghe affidate alla presidente Ionella Ligresti sono state esercitate in maniera sporadica e saltuaria, per non dire minimale, che tradotto vuol dire non c'era quasi mai. D'altra parte, la presidente Ligresti aveva una vera passione, sono i cavalli. La Laità, la società che gestisce la sua scuderia, ha ricevuto 5 milioni di euro di sponsorizzazioni e, conclude il commissario, una ulteriore modalità di ingiustificato drenaggio di risorse del gruppo Fondiaria SAI. E oggi scopriamo che nel 2012 comunque 15 milioni di bonus sono stati dati in questo modo, di cui ai due fratelli Ligresti rimasti 3 milioni e 700 mila euro. Vabbè, non sarà una Pasqua difficile per loro, lo sarà invece per molti italiani, scusatemi questa deriva un po' così populistica, ma se ne può più, anche nel 2012 i bonus non serve a niente, la Banca d'Italia continua a fare raccomandazioni, ma via liberi così. Allora, che Pasqua sarà? Cioccolato amaro? Lo chiedo a Giampaolo Angelotti, presidente della Federazione Italiana Esercenti dell'Alimentazione, aderenti a Confesercenti, che sono tutti gli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari. Buonasera. Buonasera. Lei non è come... vabbè, non voglio fare battute con quello che ho appena letto, sennò mi arrabbio di nuovo. Mi dica invece come le vostre... ha capito dove volevo arrivare. Mi dica invece le vostre previsioni, perché io ho visto i dati oggi, ho detto, mamma mia, prego. Le previsioni praticamente confermano quello che è un trend negativo, che già nel 2012, mese dopo mese, ed è confermato ancora per l'anno 2013, per cui, come si dice, le famiglie italiane fanno di necessità virtù. Per cui diciamo che è un dato che a noi ci consola, almeno facendo un giro d'orizzonte, sempre poi parliamo di percentuali nella media, almeno per quanto riguarda i consumi alimentari per la Pasqua, prevediamo una media, io parlavo sempre in valore in questo caso, di un 10% in meno. Quindi questo cosa vuol dire? In valore, non in volume, in valore. In valore, logicamente poi anche il volume, che, certo. A seconda dell'alimento a cui fanno riferimento, può essere tanto, può essere poco se andiamo in percentuale di quantità. Però la media è del 10, quindi quando poi si parla di una media del 10%, è come quello, no? C'è chi non mangia polli, c'è chi ne mangia tre. Appunto, per cui venivamo da un tema simile, vabbè. L'Italia è lunga, per cui bisogna vedere. Ciò non vuol dire che l'italiano rinuncerà alla sua Pasqua, grosso modo, invece di comprare quattro colombe industriali, si preferisce una colomba artigianale o al limite mi faccio un bel tiramisù in casa. Questo è comunque 10% in meno come contrazione, diciamo, dei valori, fino al 7% per le colombe, almeno non sono vive, diciamo. Ma circa un 7% per le colombe sicuramente. Comunque vorrei essere ancora più preciso, meno 10% per gli agnelli. Tutto sommato, uno può pensare come vuole, uno potrebbe dire che una volta tanto l'agnello festeggia la Pasqua. Meno 5% i salumi, pesce meno 3%, e poi calano gli acquisti di crostacei e frutti di mare, meno 8%. C'era un periodo in cui addirittura i crostacei volavano in elicottero verso le Dolomiti, se non ricordo male, un generale della Guardia di Finanza, comandante italiano. Adesso va peggio. Meno 3% le vendite di vini, e voi in realtà... vedete differenze sostanziali a livello territoriale? Ma certo che ci sono delle differenze a livello territoriale. È chiaro che chi consuma al nord non è quello che consuma al sud, su questo punto di vista, quindi si parla sempre della classica media. Però voglio dire, quando noi parliamo del 10% meno di agnelli, vuol dire che quest'anno, almeno per quanto riguarda la Pasqua, non è che uno non possa fare una bellissima Pasqua facendo un rotolo di tacchino farcito, o usando le carni bianche o facendo delle cose alternative. Questa è una prima parte. La seconda parte, perché poi tendenzialmente i consumi si spostano anche verso i chilometri zero, si spostano anche, come dire, cioè ogni frangente ha la sua influenza sul dato negativo. Quest'anno gli agnelli, non so, l'immagine che ha dato con l'agnello in mano la nostra brambilla può aver influenzato certe immagini date dalla televisione per certi agnelli. Perciò non vuol dire che non li trova al supermercato a un prezzo molto basso. No, ma guardi, non ho un particolare interesse per gli agnelli intesi come quelli che si mangiano, che magari gli altri anche se non compriamo più frequentemente. Però, anche da un punto di vista dietetico si cerca di fare un pranzo grosso modo altrettanto buono e valido, all'insegna dieteticamente valido, insomma, non è che ci sia questo problema. Per esempio il 5% per i salumi, si può sembrare strano, ma il tempo ha influito in maniera negativa, perché la gita fuori porta, la pasquetta, la merenda sul prato gli altri anni si è sempre fatta. Quest'anno purtroppo il tempo non lo permette e quindi si rinuncia a comprare una parte di salumi che comunque sarebbero stati consumati. Ma per dire le influenze che possono essere, le dirò anche di più. Questa stagione qua, noi per esempio, le sto telefonando dalla Liguria, sa che da noi va molto di moda un piatto tipico, è la cima, con cui ci si fa anche il broderi di questo piatto. Sì. Generalmente è un piatto che si consuma a Natale. No, guardi che se però lei va avanti così, fra un po' la contrazione non c'è, è tutto dovuto a fenomeni di costume. A me va anche benissimo, però in realtà i dati economiche e occupazionali non incide. Oltre al fatto che stiamo sforando nel programma di Davide Paolini e mi sta venendo una certa fame, però non dico di cosa, perché sennò poi gli ecologisti e gli ambientalisti mi massacrano in diretta, sto zitto. Vedi che però... anche lei è condizionata. No, non sono condizionata, sì, ogni volta che si dicono l'università di Camerino mi stanno massacrando. Allora, invece la Coldiretti oggi ha detto che, e ha stimato come le festività di Pasqua avranno vacanze fuori, cioè nel senso non fuori porta, ma via dalla città, 20% in meno, pasti al ristorante meno 3%, e almeno 5 milioni di italiani che cucinano da soli i dolci tipici. Ecco perché vanno così di moda i programmi di cucina in televisione. E le spese per gli acquisti di prodotti tipici industriali in calo del 12%. Questi sono dolori per chi fa lavoro sul consumo interni. Il pranzo di Pasqua verrà consumato per oltre 8 italiani su 10, spesa stimata 1,1 miliardi, ed sono in linea con voi. Meno 10% secco la spesa di Pasqua anche per la Coldiretti. Rispetto all'anno scorso. Io le auguro buona Pasqua. Cosa cucina a sto punto? Una battuta? Lei che cucina? Ah, guardi, noi per quanto riguarda il pasto tradizionale mangiamo agnello, ma domani pomeriggio, il giorno di Pasquetta, andiamo a mangiare le focaccine. Sai quelle che fanno i donigiani? Sì, adesso con non, la non, non, turco? Sì, non mi spieghi, focaccine, ci posso arrivare. Mi viene fame. Mi viene anche fame. La ringrazio, buona Pasqua. Meno 10% sia sulla spesa alimentare in generale, sia sulla spesa complessiva per la vacanza di Pasqua. Traffico, non c'è la borsa, come avrete capito. E però adesso entriamo in una parte un po' meno così di moda, di costume, perché ci occupiamo di un bilancio complessivo di una settimana in cui, a mio avviso, l'Europa, se possibile, è andata a infilarsi in un altro cul-de-sac, ossia vicolo cieco, non solo per via dell'Italia, di Grillo, le dichiarazioni di oggi del presidente di Goldman Sachs Asset Management, ma anche per via della gestione della crisi di Cipro. 349-238-6666 per i vostri sms e poi Focus Economia su Facebook. It's far from clear to me that if any country leaves, even as small as Cyprus. Il punto che va chiarito è che se un qualsiasi paese, anche piccolo come Cipro, esce dall'euro, cosa succederebbe dopo? Gli investitori penserebbero che anche per altri paesi potrebbe esserci lo stesso pericolo. Io credo che, nonostante i costi, Cipro resterà nell'euro, ma posso capire le ragioni che spingerebbero il paese a decidere di uscire dalla moneta unica. Ma se Cipro volesse lasciare l'euro, allora ci si chiederebbe perché non possa fare altrettanto, per esempio, la Grecia. E l'Italia? Secondo me, la storia più interessante che sta avvenendo in Italia è il fattore Grillo. Non capisco come i tipi duri del nord non stiano pensando a questo problema. L'Italia è la terza economia dell'eurozona. E se non comincia ad avere un po' di crescita presto, cominceranno a chiedersi quali siano i benefici della permanenza nell'euro. These guys are going to start asking questions more seriously about what are the benefits too. Oh, condivido tutto. Una volta tanto un banchiere centrale, siamo d'accordo, Jim O'Neill, presidente di Goldman Sachs Asset Management, ha detto esattamente quello che modestamente cerchiamo di ripetere da mesi. Attenzione, Grillo è un segnale, e i tipi duri del nord, come li ha chiamati lui, Germania, paesi scandinavi e quant'altro, devono iniziare ad aver paura e a chiedersi se l'Italia non inizia ad avere un po' di crescita, gli italiani si chiederanno quali benefici ha stare nell'euro. È un invito a non giocare più, a non giocare con Cipro, a non giocare più con l'Italia, ed è un invito che oggi campeggia, ma riferito alla politica nostra, alla nostra classe politica, ma non solo, c'è anche un riferimento sull'Europa, campeggia tutta pagina sul Sole 24 Ore. Qualcuno ricorderà, immagino di sì, il famoso titolo Fate Presto. Oggi il titolo è Basta Giochi, Basta Giochi, Basta Giochi. Direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, buonasera Roberto. Buonasera a voi, buonasera a te, buonasera a tutti. Incredibile O'Neill, cioè bisogna farsi spiegare dal presidente di Goldman Sachs che qua, se si continua a scherzare col fuoco, a fare i tipi duri, come li chiama lui, e la gestione di Cipro, Roberto, è stato un altro cul-de-sac, poi le cose possono cambiare. Tu in realtà oggi lanci un invito che è più rivolto chiaramente a Roma e alla gestione di questa crisi politica, in cui, oltre a ricordare le cifre drammatiche, 68% di pressione fiscale per le aziende, 38% di disoccupazione giovanile, 73 miliardi di costo della burocrazia per le imprese e cittadini, insomma, dici basta giochi per piacere. Quali sono sti giochi? No, molto semplicemente ci sono dei momenti in cui sembra di assistere a dibattiti addirittura surreali. Qua c'è un giovane su due che è senza lavoro. Aumenta a vista d'occhio, giorno dopo giorno, il numero dei quarantenni, dei cinquantenni che vanno a letto avendo un lavoro, si svegliano senza averlo. Decine di aziende manifatturiere chiudono. Abbiamo, perché per carità, lo abbiamo indicato con chiarezza, abbiamo raggiunto una cifra record, l'insieme di prelievi fiscali e contributivi è arrivato a 68,3%, cioè noi stiamo scontando questo eccesso di disattenzione che c'è stato negli ultimi mesi nei confronti dell'economia reale, nei confronti del grido di dolore che veniva dal mondo delle imprese, che non, come dire, non doveva assolutamente essere ignorato da parte di chi si governava, non poteva essere ignorato, invece purtroppo è stato ignorato. Cioè, voglio dire, qui nessuno sta discutendo il fatto che si sia recuperata una credibilità sui mercati, c'è stato un riscontro sia per il salva euro sia per quello che si è fatto nei primi tre mesi del governo Monti. Qui si sta dicendo che sulla pelle degli italiani, in un clima di grande confusione, si è smarrito il cuore del problema, per cui tutti parlano giustamente dei costi della politica, perché sono delle noccioline vergognose e quindi bisogna dare un segnale di cambiamento, ma nessuno, o perlomeno nel dibattito generale, sparisce il piccolo dato tecnico che comunque intervenire sui costi della politica, cosa da fare, importante, non, però non significa toccare cifre significative. Quindi invece bisogna intervenire in maniera seria per sbloccare ad esempio almeno i debiti della pubblica amministrazione e rimettere un po' di liquidità nel sistema delle imprese italiane. Ecco, su bisogna questo agire sul lato del credito alle esatto. imprese, bisogna occuparsi davvero, insomma, del nostro futuro. Allora, di fronte a tutti questi problemi, a noi, no, diciamo, ho voluto dire basta giochi, perché francamente tutto l'interesse quasi maniacale che abbiamo avuto in queste settimane, dopo le elezioni, per cogliere segnali di presunti cambiamenti, addirittura tentativi di sperimentazione per la Presidenza della Repubblica, ma insomma un po' di serietà, questo è un paese importante, questa è la terza economia europea, qui c'è un sistema, c'è un clima di paure contagiose che si diffonde di casa in casa, bisogna spezzare questa spirale perversa, questo clima di sfiducia. Quindi questo paese ha assoluto bisogno di essere governato. Io mi sono rivolto a tutte le forze politiche, dico tutte, perché ognuno deve rinunciare a qualcosa per dare il massimo possibile in questo momento difficile al paese. Tu hai richiamato Fate Presto. Fate Presto avveniva, come noto, in una situazione drammatica, perché non c'era ancora il salva euro, c'era una specifica crisi di credibilità che riguardava l'Italia, guardava le istituzioni italiane, combinato, disposto insieme all'assenza di un salva euro, ce l'avamo trovati con una inversione pericolosa della curva dei rendimenti, per cui sul mercato secondario i bot a breve termine costavano, venivano collocati, venivano scambiati addirittura a un tasso superiore a quello elevatissimo dei titoli di 10 anni. Bene, i mercati, a torto o ragione, l'ho detto tante volte, secondo me a torto, collocavano l'Italia come la nuova Grecia, quindi diciamo Fate Presto. E questa crisi finanziaria è stata superata, però quello che nessuno poteva immaginare è questo eccesso di rigidità, di disattenzione, sia genericamente si dice tema della crescita, ma qui si tratta semplicemente di, con forza, sfruttare tutti i centimetri disponibili, se non altro per trasferire un messaggio di fiducia, un po' di fiducia, e ricominciare e ripartire. Noi, diciamo, l'intervento che abbiamo sentito prima era molto importante, è molto certo. importante, perché ha ragione, l'Europa si deve rendere conto che la risposta delle comunità europee, quando il disagio supera il livello di guardia, bravo. Quando la pressione fiscale e contributiva è al 70% più o meno, quando hai un differenziale sul costo del denaro non giustificato da nulla se non dagli squilibri europei, allora, quando tutto ciò avanza sulla pelle delle famiglie, dei giovani, dei cinquantenni, delle imprese, di tutti quelli che insomma sono abituati a misurarsi certo. con l'economia reale, cioè con le cose che si toccano, che si vedono, ebbene succede qualcosa di veramente. E infatti io spero di non vedere, Roberto, mai un titolo La misura è colma, perché è chiaro che tutto questo che tu stai raccontando, cioè dal Fate Presto al basta giochi, significa dire, tra l'altro, con responsabilità anche europea, ma in questo caso parliamo dell'Italia, attenzione, io cito solo un caso perché abbiamo veramente 20 secondi, ma la gestione di quello che la Banca d'Italia ieri ha certificato essere ormai 91 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti delle imprese per servizi e beni già venduti, è stata una gestione da operetta, perché prima ci hanno detto che si faceva pro soluto, pro solvendo, non è servito a niente. Poi sembrava che dal Consiglio dei Ministri dovesse uscire i primi 20 miliardi quest'anno e gli altri 20 l'anno prossimo, manca, diciamo, il decreto attuativo, chiamiamolo così, e siamo sempre a capo zero, no? Per cui su questo io mi collego molto volentieri con il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Basta giochi, basta giocare, vale per tutti, vale anche per qualche paesuccio del nord. Dopo ne parleremo con Giulio Sapelli e con Alberto Mingardi, che è direttore dell'Istituto Bruno Leoni, per capire dove andiamo a parare. Buona Pasqua a tutti i colleghi del quotidiano e giro tu direttore. Grazie Roberto Napoletano. Buona Pasqua anche a voi. Posso dirti solo una cosa? Sì. Un secondo. Guarda che il messaggio che abbiamo dato l'abbiamo dato per l'Italia, ma è rivolto fortemente all'Europa, perché noi abbiamo detto chiaramente che oggi serve un governo che in Italia si occupi delle due vere emergenze, il lavoro giovanile e l'economia reale, ma che soprattutto abbia un peso specifico in Europa. Perché è qui che si gioca la partita delle imprese e qui si possono vincere le debolezze, le distorsioni di disegno europeo pericolosamente incompiuto, proprio utilizzando con intelligenza le armi della politica. Perché passi falsi come quello cipriota, la farina cipriota ha fatto perdere qualità e freschezza al vero pane europeo, io dico così, che è risparmio, ma il conto lo stiamo pagando noi. Tutti noi. Anche quel dato, no, noi italiani per primi, più degli altri, quindi anche quel dato di mercato, di discesa salutare dei tassi sui nostri titoli di Stato, ha perso un guadagno importante. Ovviamente siamo distanti da quanto era nel novembre 2011, ma stiamo perdendo. Quindi l'Europa non può essere più quella dell'austerità. Perché ciò avvenga bisogna uscire dal piccolo cabotaggio delle politiche nazionali e l'Italia deve essere autorevolmente rappresentata dove si prendono le decisioni politiche. Le 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni, dopo esserci occupati di amenità varie sugli sprechi del denaro pubblico ma anche degli azionisti e sui consumi di Pasqua, calo del 10%, e poi con il direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano abbiamo appena commentato il titolo di oggi, Basta Giochi, e ascoltato le parole di Jim O'Neill. Io però, siccome le condivido pienamente, scusatemi se mi innamoro ogni tanto di alcune dichiarazioni, lui è il presidente di Goldman Sachs Asset Management, è molto famoso nella comunità finanziaria, è un banchiere d'affari di quelli, diciamo, che c'erano anche prima del 2008, la sa lunga, gestisce patrimoni, non è un politico, pensa solo giustamente a fare gli affari suoi e quelli della banca. Ecco, il giudizio che ha dato oggi sulla situazione europea, attenzione, è più un problema Grillo che Cipro. It's far from clear to me that if any country leaves, even as small as Cyprus. Il punto che va chiarito è che se un qualsiasi paese, anche piccolo come Cipro, esce dall'euro, cosa succederebbe dopo? Gli investitori penserebbero che anche per altri paesi potrebbe esserci lo stesso pericolo. Io credo che, nonostante i costi, Cipro resterà nell'euro, ma posso capire le ragioni che spingerebbero il paese a decidere di uscire dalla moneta unica. Ma se Cipro volesse lasciare l'euro, allora ci si chiederebbe perché non possa fare altrettanto, per esempio, la Grecia. E l'Italia? Secondo me, la storia più interessante che sta avvenendo in Italia è il fattore Grillo. Non capisco come i tipi duri del nord non stiano pensando a questo problema. L'Italia è la terza economia dell'eurozona. E se non comincia ad avere un po' di crescita presto, cominceranno a chiedersi quali siano i benefici della permanenza nell'euro. These guys are going to start asking questions more seriously about what are the benefits too. È un uccello, ma non è una colomba, è un uccellaccio che è tornato a volare, spero magari con un ramoscello d'olivo in bocca, ma dubito, conoscendolo. Professor Giulio Sapelli, che insegna storia economica alla Statale di Milano, buonasera. Buonasera, ho l'ulivo, la palma, per lei e per gli ascoltatori. Non è tempo di ulivo, non mi sembra in nessuna formula dal punto di vista politico, però vabbè. E poi grazie anche al direttore dell'Istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi, autore di un libro, L'intelligenza del denaro, perché il mercato ha ragione anche quando ha torto. Buonasera anche a lei. Buonasera. Sapelli, mi tocca dare ragione a un banchiere d'affari, non pensavo sarei arrivato a questo punto, però insomma io trovo che nell'analisi di O'Neill, attenzione, prima o poi, lo capiscono anche i paesi duri del nord, se non vi saranno politiche per la crescita in Europa, gli italiani non solo si potranno chiedere ma che senso ha restare in Europa, pesa più il fattore Grillo che il fattore Cipro, mi trovo completamente d'accordo, vorrei sapere la sua opinione e poi invece chiedere una cosa a Mingardi. Ma sono d'accordo con lei, O'Neill è un grande banchiere d'affari, come tutti i banchieri d'affari hanno una visione geostrategica. Ricordo che se lei legge le memorie di Alan Greenspan, che ha diretto la Federal Reserve, alle questioni monetarie in un libro di 700 pagine ne sono destinate 300, le altre 400 Greenspan riflette sul mondo, sulle questioni geostrategiche. La finanza non si tiene senza livello geostrategico. I nostri banchieri lo sanno poco, i grandi banchieri nordamericani lo sanno da sempre. Veniamo alla questione, ha ragione. E beh, d'altra parte questo, voglio dire, per me è un invito a nozze. Io vecchio keynesiano ho sempre detto che questa politica di austerità avrebbe distrutto le basi industriali e strutturali dell'Europa, no? E ora se ne accorgono anche loro. Naturalmente il banchiere d'affari si preoccupa della turbolenza sociale, della carenza di legittimazione che le pesti che seguono alla depressione in cui siamo immersi, ovvero sia la disaffezione, l'anomia, la perdita di fiducia che sono collegate strettamente alla disoccupazione, hanno un punto di caduta politica nel bonapartismo. Io rifiuto questa definizione di populismo, Grillo non ha nulla a che vedere col populismo, il movimento di Grillo è un movimento cesarista bonapartista diretto monocraticamente con grande spregiudicatezza e con innovazioni tecnologiche che raccoglie la protesta, e la cosa drammatica è che non la raccoglie più la sinistra ma la raccoglie Grillo per quell'inversione della rappresentanza per cui in questa Italia devastata i ricchi votano a sinistra e i poveri votano a destra. Quindi O'Neill e poi i disperati e quelli preoccupati votano Grillo. Quindi diciamo il nostro banchiere d'affari è un acuto politologo molto più di tanti cattedratici. Mingardi, poi se vuole fare un commento ci mancherebbe, visto che lei ha una formazione e un punto di vista diametralmente opposto a quello di Sapelli, è un liberista, Bruno Leoni è un po' il think tank, il laboratorio italiano, il pensatoio italiano delle idee liberiste. Però lei che ha scritto l'intelligenza del denaro, io dicevo in apertura del programma un'ora fa che questa volta, visto che abbiamo spesso accusato la finanza di essere speculativa, di lavorare sulle paure, sulla pancia, questa volta nel caso dell'Italia è un mese, più di un mese che abbiamo avuto le elezioni, non ci sono state tensioni di carattere così speculativo, lo spread a 340-350, sono stati abbastanza razionali a mio avviso gli investitori, vogliono capire, vorrei un commento anche su questo. Guardi, distinguiamo un po' le questioni, è evidente che, anche di lì viene il titolo di quel libro che lei ha avuto la bontà di citare, e i mercati sono un processo di apprendimento, che ha tempi suoi, molto difficilmente, come dire, schiacciabili sulle dimensioni che spesso piacerebbero agli economisti. Gli economisti vorrebbero che fossero processi di apprendimento semi istantanei. C'è da dire che forse nel corso degli ultimi due anni anche le persone che compiono decisioni importanti sui mercati finanziari sono andate attrezzandosi rispetto alla loro capacità di capire il nostro paese, quindi sono accorti che davanti a una situazione come quella le quali siamo trovati a che fare dopo le elezioni, come dire, c'erano tempi tecnici della democrazia. Io in realtà sono abbastanza d'accordo con quanto diceva Giulio Sapelli poc'anzi. E questo quasi mi preoccupa, nel senso che no, siamo verso il pensiero unico. No, prego. No, per carità di Dio. Non sono d'accordo sull'aspetto, del modo nel quale vorremmo provocare la crescita, però mi sembra evidente che qui abbiamo un progetto, che è il progetto europeo per come esiste ad oggi, che è un progetto delle classi dirigenti dei paesi del vecchio continente. Non scalda i cuori degli elettorati, gli elettori sono comprensibilmente affezionati alla democrazia nazionale, che è la cosa che conoscono, che capiscono, e il modo nel quale le classi dirigenti europee si confrontano con i problemi è un modo tra il masochistico e il surreale, cioè noi rispondiamo a qualsiasi problema venga ad apparire nelle cronache dicendo che ci vuole più Europa. Che cosa voglia dire più Europa? Non si capisce, si crea incertezza anziché cercare di ridurre incertezza, è quello che è avvenuto anche come dire, all'inizio della vicenda cipriota, tutto si congela in una situazione di incertezza così pervasiva, gli elettori non capiscono e non capendo naturalmente si rivolgono ai progetti bonapartisti. Allora, ho le informazioni sul traffico, quanto mai importanti oggi per il Ponte Pasquale, e poi mi avete già alzato la palla, ma è chiaro che io voglio un commento sulla situazione, anche riprendendo il titolo del Sole 24 Ore, basta giochi a cavallo tra politica e economia, ma anche sulla gestione di Cipro, perché mi dispiace, io non posso dimenticare in questa settimana come abbiamo aperto lunedì con le dichiarazioni di quel mitico personaggio olandese, presidente dell'Eurogruppo, che si chiama Dijsselbloem, il quale ha detto... Giusto per tranquillizzare un po' gli animi, il modello Cipro sul prelievo prelievo forzoso sui conti correnti potrebbe essere un modello da applicare anche a altre crisi bancarie in Europa, dimenticando che quando toccò a Commerzbank, a Dexia o a ING Direct, quindi Germania, Francia e Olanda, nessuno ha mai pensato neanche minimamente di fare un prelievo forzoso sui conti correnti. Allora, scrive un ascoltatore al 349-238-6666, una cosa che spesso scrivete, cioè, ma insomma, Barigioni, se lei avesse uno dei figli con le mani bucate, cioè i paesi del sud Europa, immagino, perché dovrebbe continuare a dargli soldi? Sarebbero buttati via. Insomma, non è esattamente così, senza citare il figlio prodigo, anche se siamo sotto Pasqua. Sì, ma se io smetto completamente di dare soldi al figlio con le mani bucate, un conto è... controllare quanto gli do, controllare come li spende, farsi dare le ricevute, gli scontrini e tutto un insieme di cose. Ma se io smetto di dargli soldi e questo va a scippare le vecchiette, poi me lo arrestano. Non so se la mia posizione è migliore, no? Chiedo. Allora, Giulio Sapelli, da Basta Giochi in Italia e in Europa, teniamo assieme sia il tentativo stranamente fallito di Bersani, ma anche questo mitico Dijsselbloem, io non so dove, ma come fa a produrre l'Europa a certi personaggi, me lo chiedo veramente. No, sono antropoidi prodotti dalle business school, caro, non sono prodotti dall'Europa, sono prodotti da quell'arma di distruzione di massa che sono i master, le MBA e le business school. Ma caro, ma siamo davanti a un degrado della civilizzazione, no? È evidente, non sanno la storia, non sapevano che a Cipro c'era la più grande base militare del Mediterraneo, che era occupata dalla Turchia dal 74 e che i russi avevano un interesse geostrategico. Hanno combinato un disastro, ma hanno fatto una prova generale se potevano fare quello che fanno Cipro anche in altri paesi. Ma lì il Parlamento cipriota, che è fatto di seguaci un tempo dell'arcivescovo Makari, un grande leader politico cipriota e greco per l'Enosis, unità con la Grecia, anche se adesso è costata cara a Cipro, il Parlamento cipriota, indicando la via agli altri parlamenti, si è ribellato alla tecnica degli antropoidi teutonico-nordici. Questo è successo a Cipro, mio caro ragazzo. Cioè, antropoidi e prodotti delle business school dell'Europa, certo. Non avevo ancora... Antropoidi vuol dire che assomigliano a degli umani, sì, ma non sì, sono... ma non lo sono sostanzialmente, capito? Sono antropomorfi. Hanno sembianze umane, ma sono prodotti degli umane, ma sono degli MBA. Clonati. Poi vanno anche vestiti nello stesso modo, portano orribili cravatte rosa, terribili, no? Comunque mi dica, caro, allora, devo dire? Io volevo capire, lei ritiene, no, un passaggio importante di quello che ha detto, secondo lei con Cipro abbiamo fatto il test generale di quello, certo, sì? Certo. Di quello sì, che certamente. Si... Stanno facendo le prove generali per riversare sui risparmiatori i debiti, sia i debiti sovrani sia i debiti delle banche, cioè vogliono fare tabula rasa della possibilità di riprendere la crescita e gli investimenti in favore della finanziarizzazione, salvando le banche, naturalmente le banche tedesche, sta andando con calma, no? Ci sarebbe tutta una serie di cose da dire su cosa sta capitando alla BCE e come mai 4 giorni prima di quello che è accaduto a Cipro c'è stata una fuga di capitali da Cipro, guarda caso, che non erano russi ma erano nordici e tedeschi. Questi sono dati che io ho particolarmente attraverso le mie fonti, diciamo così, crepuscolari di informazione. Ecco, quindi lei sospetta, per dirla tutta, che un'anticipazione di quello che sarebbe venuto, una fuga di notizie c'è stata, e quindi i capitali delle banche, la Germania era molto esposta su Cipro dopo la Russia, era il secondo paese, siano volati via. Sono poi, se lei guarda, c'è la documentazione della BCE, andiamo a vedere, c'è scritto, c'è stata una sottrazione di capitali dalle banche cipriote qualche giorno prima, quindi questa cosa è una cosa, l'ha analizzata Mauro Bottarelli sul sussidiario con grande intelligenza. Allora, Mingardi, naturalmente, prego. Di questo non parla nessuno, no? Perché questa, vabbè, l'abbiamo appena detto, c'è una libertà di stampa limitata, bene o male che c'è lei, vabbè, adesso troppa grazia, Sapelli. Però Mingardi, anche lei ritiene, perché lei ha posizione insomma non keynesiane, però non ritiene che siano stati fatti tutti gli errori possibili? Noi come classe politica, come paese, non riusciamo a formare un governo, e vabbè per modo di dire, però che questa gestione di Cipro per una cosa molto piccola così abbia creato l'ennesimo tassello di incertezza e insicurezza. Io ieri ho mandato, forse non l'avete sentito, ho chiesto, visto che ci sono molti direttori di banca, impiegati di banca che ci ascoltano quando finiscono di lavorare, a quanti risultasse di aver avuto clienti che chiedevano di o spezzare i conti correnti in tre parti o intestargli la moglie per non essere sotto i 100.000 euro. Abbiamo ricevuto una valanga di sms ieri, addirittura chi li sposta in franchi svizzeri e quant'altro. Cioè, in Germania l'ultimo sondaggio di 3 giorni fa ha detto che il 54% dei tedeschi dopo Cipro non ritiene più completamente sicuri i conti correnti. Prego Mingardi. Sia stata ancora una volta creata molta incertezza, soprattutto per la gestione di questo accordo. Nella gestione pedestre dell'accordo, a parte anche il governo cipriota, che da principio sembrava orientato sostanzialmente a distruggere l'idea di un'assicurazione sui depositi, andando a prelevare quattrini da tutti i conti correnti. L'ultima versione dell'accordo, però, va detto anche questo, sostanzialmente ha un grosso vantaggio, cioè una volta tanto a pagare è anche il sistema bancario, quindi gli azionisti delle banche pagano gli obbligazionisti, pagano i grandi depositanti che, a dire il vero, avevano avuto anche rendimenti molto interessanti a Cipro in passato, quindi laddove ci sono buoni rendimenti c'è anche un rischio. Il problema è come ci si è arrivati. E ancora una volta questa governance europea innanzi a scenari sui quali il primo mestiere dell'attore pubblico e segnatamente della banca centrale deve essere quello di creare certezza, al contrario noi abbiamo ancora creato incertezza, perché non risolviamo questi problemi facendo appello a delle regole, cercando di farle rientrare in dei casi generali, ma ci piace tantissimo mantenere ampi margini di potere discrezionale per i decisori, quindi sono sempre soluzioni alla carte innanzi alle quali nessuno può fare previsioni sensate su quanto avverrà domani in casi analoghi. E questo è questo per quello che riguarda Cipro. Ho 3 minuti secchi per sapere invece che cosa dovremmo fare noi come compiti a casa. È chiarissimo, molti ci chiedono la Slovenia, oggi la Premier ha detto non siamo come Cipro, e ci mancherebbe, però i problemi della Slovenia li abbiamo affrontati lungo tutta la settimana con anche un approfondimento ad hoc. Sono sempre piccoli paesi, il problema sono i messaggi che tu dai per una piccola risposta piccola rispetto ai problemi europei. Sapelli, come ne usciamo qui? Governo tecnico per assicurare i mercati, bisogna governo di scopo? Un governo di unità nazionale come in tutti i paesi civilizzati, dimenticare le polemiche, non invocare arresti, carcerazioni che mi sanno veramente di un giustizialismo becero. Bisogna fare un governo PD-PDL e mettersi d'accordo su queste cose. Tutte queste formulette, governo del Presidente, eccetera, girano attorno alla necessità. Poi il Presidente potrà essere così una persona che accontenta tutti i due fronti, ma bisogna fare una grande tedesca, basta. Una grossa coalizione, ma non ritiene quello che dicevo all'inizio del programma, che comunque Grillo, noi raccontiamo sempre gli sprechi della pubblica amministrazione, un effetto l'abbia già avuto, visto che insomma Maroni ha annunciato delle iniziative minori sul fronte dei costi, però insomma significative e simboliche, no? Sì, ma questo io poi dopo ho anche espresso posizioni, il programma di Grillo nella sua totalità va rigettato, ma su alcuni punti specifici sono cose che vanno accolte, per esempio la necessità di far fronte alle piccole e medie imprese, anche questo provvedimento che lo Stato adesso fa, è riuscito addirittura a convincere Grilli che per fare la crescita bisogna tirare fuori i soldi dallo Stato alla faccia del debito, no? Quindi diciamo Grillo è veramente un mago, no? Se riesce a convincere un fondamentalista. Grillo convince Grilli. Esatto, vedo che lei è sempre dal singolare al, al plurale. Ingegno umanistico. Vabbè, resti in volo un attimo, Sapelli. Mingardi, ho 30 secondi, la soluzione anche per lei, la soluzione, quello che lei ritiene essere la soluzione. Guarda, è evidente che la cosa più ragionevole da fare sarebbe un governo PD-PDL che mettesse mano ad alcune grandi questioni, anche perché è l'unico modo per fermare l'ascesa di Grillo. Questo sarebbe l'autointeresse della nostra classe politica. Il problema è che la nostra classe politica è anche impermeabile alla ragionevolezza e del tutto incapace persino di fare il suo interesse. Andiamo bene. Allora, sono molto preoccupato in questa asse condivisione Sapelli-Mingardi, perché vedere un liberista e un keynesiano d'accordo su molti punti mi spaventa, però voglio dire, a questo punto ne prendo atto. C'è un ascoltatore Sapelli che vuole acquistare il suo poster, deve avere molto spazio nella stanza, però non spiego perché. Io ringrazio e auguro buona Pasqua a tutti e due, e quindi a Giulio Sapelli. Torno in volo, Sapelli, con la colonna, con il ramoscello d'olivo. Stanno da questa triste terra. Arrivederci. Arrivederci a lei, grazie anche al direttore dell'Istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento come ogni fine settimana a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Filippo Aureggi in regia. Buona Pasqua a tutti voi. Pensiamo ad altro, va là. E poi Focus Economia torna lunedì di Pasquetta dalle 17 fino alle 18. Radio 24. La passione si sente. Banca Carige Italia, Banca del Monte di Lucca, Cassa di Risparmio di Carrara. Vi hanno presentato Focus Economia.